Mendicare una rogna o qualcosa da spaccare con i denti. Ciao Carla, ciao Carla, ciao Carla. L'estate del Signore sono infinito e tu hai imboccato la più buia. C'è un uomo dietro i cassoni della monnezza, da poco sarete. Stringi un cagnolino di pezza, ce lo vedi, ma nessuno ti ricorderà mai così. Ciao Carla, ciao Carla. Il mondo ti ha salato morsa, e tu sei colorata al corpo di libide marche sparse. Davanti al bastone, per mendicare una rogna o qualcosa da spaccare con i denti. Ciao Carla, l'estate del Signore sono infinita e tu hai imboccato la più buia.